Ciao a tutti carissimi ascoltatori di Radio Big World e benvenuti in questa nuova puntata dei Monologhi Esteriori. Io sono come sempre Elisa Elena Carollo, la vostra aspirante attrice di fiducia che anche questa settimana cercherà di farvi entrare un po' più in profondità nel mondo del teatro. Questa volta, a sorpresa, senza monologo. No, non mi sono dimenticata di sceglierlo. Semplicemente ho pensato che avrei potuto mettere in pratica un'idea che mi era già venuta qualche tempo fa e che mi avevano suggerito anche alcuni sul blog, mi pare di ricordare. C'è questo esercizio che si fa nel mondo teatrale, tra gli attori per esercitarsi, di prendere un testo a caso, va bene qualsiasi cosa, anche gli effetti collaterali dei medicinali, e lo si legge dando diverse intenzioni. Fermiamoci un attimo, che cos'è un'intenzione? Nel linguaggio teatrale significa l'emozione che sta dietro a quello che stiamo facendo, che sia dire una battuta o fare un'azione scenica. Ad esempio, la stessa battuta può essere detta con un'intenzione arrabbiata, oppure preoccupata, o triste, o anche divertita, e farà un effetto diverso, perché il personaggio intende qualcosa di diverso, appunto, e questo dà un significato totalmente diverso alla scena. Ai corsi di teatro, per allenarsi nella gestione di queste intenzioni, facciamo degli esercizi, tra cui quello che vi voglio mostrare oggi. Si tratta appunto di prendere un testo, che può anche non avere nulla di teatrale, e leggerlo come se fosse teatrale. Come se fossimo tristi, se fossimo arrabbiati con qualcuno, se fossimo allegri, divertiti, spensierati, stupiti, qualsiasi cosa, più intenzioni ci si mettono dentro e meglio è. La scelta del testo non ha così tanta importanza, però forse come esempio rende meglio se si sceglie qualcosa di totalmente asettico, che non abbia nessuna emozione di per sé. Quindi per oggi vi parlo di elettrochimica. Sì, ho preso il testo da uno dei miei vecchi libri dell'università, perché nel caso non lo sappiate, in tutto questo mio contorto percorso di aspirante attrice, una delle cose che ho fatto nel frattempo è stata prendere una laurea in ingegneria dei materiali. Ma questa è tutta un'altra storia, non ne parleremo oggi. Prendo soltanto questo testo perché è qualcosa di scientifico e che non veicola nessuna emozione. Le emozioni possiamo andarcele a mettere noi, come ci pare. Allora, per prima cosa, vi leggo il testo in modo neutro. L'elettrochimica trae origine dall'esistenza di interfacce e dalle proprietà elettriche che ne derivano. L'interfaccia è la superficie di separazione tra due fasi diverse. Le cause di diversità, peraltro, possono essere molteplici. Stato fisico, immiscibilità, separazione imposta tra due liquidi miscibili con diversa composizione chimica. L'interfaccia costituisce una condizione di discontinuità delle proprietà chimiche e fisiche del sistema. Ci avete capito qualcosa? No? Benissimo, non importa, non dovevate capire. Dovevate soltanto ascoltare e vedere che non c'è appunto nessuna emozione dentro. Provo a mettercene una io. Potrai leggere questo stesso testo in modo molto, molto triste. L'elettrochimica trae origine dall'esistenza di interfacce e dalle proprietà elettriche che ne derivano. L'interfaccia è la superficie di separazione tra due fasi diverse e le cause di diversità, peraltro, possono essere molteplici. Stato fisico, immiscibilità, separazione imposta tra due liquidi miscibili con diversa composizione chimica.

No, scherzo, in realtà l'interfaccia elettrificata non è così interessante, almeno dal mio punto di vista, probabilmente neanche dal vostro. Però forse sono riuscita a renderla un pochino più interessante dandole tutte queste intenzioni che non c'entravano nulla con il testo originale, avete visto? Però un attore riesce a metterci qualcosa di più. Ovviamente io non sono sicuramente l'attrice da Oscar che può rendere interessante qualsiasi cosa legga. Però se andate a cercare su YouTube Gasman che legge il menù del ristorante oppure la tabella, quella con le lettere dell'ottico, lì è una cosa meravigliosa secondo me. Anche se questo non era un monologo tradizionale, spero che sia comunque stato interessante ascoltarmi per voi e che vi abbia portato un po' di più dentro il mondo del teatro. Basta prendere un testo qualsiasi, darlo in mano ad un attore e vedete quante cose possono venire fuori. Immaginate quante altre possibilità avremmo potuto trovare. La prossima settimana tornerò con un monologo un po' più tradizionale. Ma spero che anche questa svolta vi sia piaciuta. Spero che vogliate seguirmi ancora anche mercoledì prossimo, sempre qui su Radio Big World. Oppure in versione podcast, come preferite. Noi comunque ci risentiamo presto. Ciao a tutti!